terima ke hami satu sarario. Alayan gorong atasi sahalaki nasial pelupui. Ibarang di perlapo palu tangani. Nunga belahe maru jungoruni di bulan nausal. Pelobui, ibarat di pelapo pan.